È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Ci siamo, 18:38, i numeri di telefono come al solito per chiamarci, vi ricordo 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara è radio24.it. Andiamo subito a sentire Sky TG24, non c'è il TG2, c'è la partita, non so. Schifani, maggioranza compatta, altrimenti si vada subito alle urne. Studenti in piazza in tutta Italia, tensione a Milano. Obama a Pechino invita la Cina a dialogare col Dalai Lama. Qualche titolo di studio aperto allora. Influenza A, ero in coma, così mi hanno strappato alla morte. A studio aperto il racconto di una 25enne torinese e Babbo Natale dalla Finlandia rassicura i bambini, il virus non mi abbatte, arriverò. Scuola di nuovo in piazza, migliaia di studenti hanno manifestato oggi in tutta Italia, tensione a Milano per un corteo non autorizzato, scontri con la polizia, 4 fermati. O Sarracina, o Sarracina. Il caso Gheddafi, secondo voi cos'è? Una buffonata? L'ennesimo tributo che dobbiamo pagare al colonnello libico per questa storia dell'immigrazione? Un tentativo di conversione di massa? Questi festini, che in realtà festini non sono, queste riunioni con 200 e più ragazzi, una sorta di casting? Oppure l'ennesimo insulto al cristianesimo, perché in croce non ci sarebbe stato Gesù, ma un sosia, secondo quello che Gheddafi avrebbe detto a qualche ragazza. Perché ci sono andate poi queste ragazze per solo 75 euro, per promesse future di non so cosa? Sentite una di queste. Che cosa l'ha colpita di Gheddafi? Sicuramente il suo carisma si respira. Già all'ingresso ci siamo alzate tutte, abbiamo applaudito, è stato veramente emozionante. Lei è Francesca Grasso, romana, 29 anni, di professione hostess, è tra le 200 ragazze che ieri sera hanno partecipato alla serata a sorpresa con il colonnello Muammar Gheddafi a Roma per il vertice FAO sulla fame nel mondo, ma con il desiderio di incontrare donne italiane. Un'altra stravaganza del Rais, per una serata senza cibo né acqua in una villa privata a nord di Roma, in cui Francesca è stata pagata dall'agenzia Hostess Web per assistere ad una lezione sull'Islam. Ci sarebbero state ragazze che avrebbero pagato per assistere a una cosa del genere. Quanto è stata pagata? 75 euro netti. Abbiamo avuto un incontro assolutamente a sfondo religioso e anche un incontro pro donna. Lui ci ha invitate tutte quante in Libia. Come doni a tutte le ragazze presenti il Corano e il suo libro verde. Una serata particolare per Francesca Grasso, senza alcuna perplessità sul fatto che il colonnello abbia detto che Gesù non fu crocifisso, ma che al suo posto ci sarebbe stato un sosia. Sono rimasta dapprima incantata, poi un po' scioccata e da lì ho cominciato a pensare. Lei è cattolica? Sì. E stasera si replica, stavolta le ragazze saranno 250. E da lì ho cominciato a pensare. Altra testimonianza incredibile, se volete, raccolta dalla stampa di oggi. Una tale Francesca: da ieri sera non mi stacco dal Corano e non vedo l'ora di andare in Libia. Ho lasciato tutti i miei recapiti a una delle mogli di Gheddafi. Questa è meravigliosa, a una delle mogli di Gheddafi. Non si stupisce per il fatto che Gheddafi abbia più mogli, insomma. E mi ha assicurato, prosegue Francesca, che presto partiremo. Chissà, certo, molto riflettuto su quello che ci ha detto e soprattutto su una domanda che ci ha posto. Ci ha chiesto: avete mai pensato come mai i Vangeli sono 4 e il Corano è sempre stato solo 1? Prima di adesso, dice questa Francesca, non ci avevo mai pensato. L'unica religione di Dio è l'Islam, avrebbe detto Gheddafi. Chi è fuori dall'Islam è nell'errore e perderà. Leggete il Corano, convertitevi e se lo farete con convinzione vi aiuterò ad andare alla Mecca. E dopo queste testimonianze che avete ascoltato sorge una domanda spontanea, una domanda semplice: ma il problema è Gheddafi in Italia o il problema sono queste persone che sono andate da Gheddafi per 75 euro? 800 24 00 24 per chiamarci. Altro spunto per oggi: la solita diatriba che si è aperta all'interno del Partito Democratico su andare o non andare a una manifestazione promossa da gruppi vari su internet, ma sostenuta da Rifondazione Comunista dell'Italia dei Valori, alla manifestazione al No Cap Day, al No B Day, chiamatelo come volete, del 5 dicembre prossimo. Senti, ma che tipo di festa è? Non è che alle 10 state tutti a ballare i girotondi e io sto buttato in un angolo, no? Ah no, se si balla non vengo. Che dici, vengo? Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente. Vengo. Vengo e mi metto così vicino a una finestra di profilo, in controluce. Voi mi fate, Michele, vieni di là con noi, dai. E io, andate, andate, vi raggiungo dopo. Vengo. Ci vediamo là. No, non mi va, non vengo. Insomma, andare o non andare a una manifestazione, io non capisco, lo scrive oggi, credo, il quotidiano Europa, cosa ci sia da pensare, qual è la riflessione che bisogna fare. Già una manifestazione che ha come titolo, come slogan, No Cap Day, No B Day, il Partito Democratico, se vuole essere un partito serio, dovrebbe dire no, grazie. Eppure si aprono discussioni infinite. Bersani tentenna Bersani, dice, beh, bisogna vedere quali sono le parole d'ordine, poi gliele facciamo ascoltare noi con la canzone, quella famosa di Tony Troia, uno dei cantanti di questa manifestazione, quali sono le parole d'ordine del No Cap Day o del No B Day. Comunque Bersani non sa che fare. Se le parole d'ordine non sono incompatibili con le nostre posizioni, allora potrà esserci la presenza di esponenti, di cittadini, di militanti e così via dicendo. L'avete capito voi? Non si capisce qual è la posizione del Partito Democratico. A buon gioco Di Pietro. Che senso ha dire non lo abbiamo convocato noi la manifestazione, quindi non possiamo andare? Ma tiratevi giù questo cappello da prima della classe e partecipate insieme a tutti noi poveri, umili oppositori a questo governo Berlusconi. Ci siamo, 18:48, 800 24 00 24. Alcune cose sulla vicenda di Cosentino. La domanda è sempre la stessa: si deve dimettere o non si deve dimettere? È giusto che una richiesta di arresto arrivata con le modalità che sappiamo, di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, porti a un cambiamento nella vita politica di un personaggio che è sottosegretario all'economia, oppure ci sono ragioni di opportunità politica quando è in campo la criminalità organizzata? Sentiremo più avanti delle voci raccolte qua e là nelle ultime ore, però vi voglio far sentire come ha trattato ieri in alcuni passaggi la vicenda Bruno Vespa. Qualcuno ha parlato di una trasmissione ieri sera, Porta a Porta, dove c'era anche Cosentino, di una trasmissione smaccatamente a favore del sottosegretario all'economia, per alcune espressioni del conduttore riferite in realtà non solo a Cosentino ma anche a quelli che si trovano nella posizione di Cosentino, cioè di ricevere un mandato di cattura o comunque un avviso di garanzia a mezzo stampa, e però comunque riferite sicuramente anche a Cosentino che era presente in studio. La prima espressione è povero Cristo. Ma un povero Cristo che da un anno e mezzo fa scopre da un settimanale, e non casuale, perché era lo stesso settimanale che pubblicava i verbali di Mani Pulite, tant'è vero che gli avvocati risparmiavano le copie perché trovavano lì tutti i verbali, quindi li tenevano là, erano buoni, erano come se fossero autentici. Un anno e mezzo fa, e per un anno e mezzo non riesce ad essere sentito. Cosentino, Vespa, Rossi, un cittadino qualunque, insomma. Poi viene iscritto nel registro degli indagati e, come lei dice correttamente, non ne sa niente. Il primo gesto, il primo atto che ha è ancora un giornale che gli dice guarda che sarai arrestato, e poi c'è questa richiesta, non mi dica che questo è normale. Non mi dica che questo è normale, l'ha rivolto a De Magistris presente in studio, e devo dire scarsamente battagliero. Ancora Vespa, povero disgraziato, sempre riferito a Cosentino e a chi si trova nella sua stessa situazione. C'è un punto di cui si è parlato molto ieri sera Porta a Porta, cioè il fatto che Cosentino, è la tesi di Cosentino, in tutto questo tempo ha chiesto di essere ascoltato dai magistrati e non è stato ascoltato. Sentiamo. Ma sì, è normale che ci sia un'indagine, che un giornale, l'Espresso, l'abbia pubblicato un anno e mezzo fa, e che un povero disgraziato, non mi riferisco solo a Cosentino o chiunque altro al posto suo, non sappia niente, lo legge sui giornali e non sa niente. Ma questa è la posizione molto precisa di Vespa. Devo dire che a me, quando un conduttore prende una posizione, quando è chiaro su un tema, a me piace, a prescindere poi dal fatto che abbia ragione o torto. Davide da Milano, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Salve, no, volevo semplicemente intervenire sul fatto di Gheddafi, sulle polemiche, sì. Ma dal mio punto di vista ci sono due tipologie di problemi. Il primo problema è l'eccessiva sudditanza che l'Italia ha nei confronti della Libia e del suo leader in generale. C'è questa storia degli immigrati, Davide, sì, c'è uno scambio vero e proprio, no? Sì, è chiaro, però... Di interessi, è eccessivo secondo lei? Sì. Nel senso che l'Italia dovrebbe avere, dal mio punto di vista, poi personale, una posizione un po' più ferma e scendere un po' meno a compromessi con la Libia. E la seconda cosa, c'è un problema anche nostro, nel senso che se 200 persone sono state disposte ad andare a sentire Gheddafi e si sono sentite illuminate, probabilmente magari c'è un problema anche nella nostra società, ecco, perché non ho... Cioè, non trovo un filo logico sul fatto che gli possa aprire la mente. Ecco. Una di queste ragazze, prima l'abbiamo contattata, forse dopo sarà in onda con noi, era dal parrucchiere a sentire l'iPod e intanto aveva il Corano in mano, non so se si rende conto. Appunto, cioè, mi rendo conto dell'assurdità della cosa. La ringrazio. Quindi, Giorgio, provincia di Bologna, buonasera. Buonasera, niente, volevo intervenire sulla faccenda delle elezioni anticipate. Di cui parlano tutti, sì, di cui parlano tutti. Sì, c'è un problema con, non so, ha 120-130 deputati il Popolo delle Libertà. Sì. E, insomma, se uno sa, il Premier si deve recare in Parlamento e deve proprio chiedere la fiducia, deve dire al suo partito e agli alleati della Lega: votatemi contro. Non è l'unico modo per arrivare alle elezioni anticipate, no, Giorgio. Ce ne sono diversi. Però certamente il modo sicuro per Berlusconi è questo qua, il modo più sicuro per non affidarsi completamente a Napolitano. Però insomma è molto tirata anche dal punto di vista mediatico, perché allora uno dice, insomma io sono uno che gli ha dato il voto, se me lo ritrovo a fare una cosa di questo genere qua... credo poco alla seconda tornata. Beh, lo capisco, Giorgio. Una soluzione ci sarebbe, cioè quale? Far andare avanti il processo breve per iter parlamentare, sì, però mettendo dentro, cioè togliendo il reato di immigrazione clandestina, in modo tale da costringere la Lega a votare contro, perché loro... Guardi, Giorgio, mi sembra una cosa molto bislacca, se ne sentono di tutti i colori, caro Giorgio, per esempio... In questa maniera portarsi alle elezioni da solo, eh? Sì, no, perché... ho capito, però Giorgio, mi sembra una cosa molto tirata per i capelli. Leggo in un'intervista al Manifesto addirittura che Giuseppe Consolo, che è vicepresidente della Giunta per autorizzazioni per il PDL, propone una legge ponte, una sorta di lodo ponte, una riedizione del lodo Alfano con legge ordinaria, mentre nello stesso tempo si avvia un processo di revisione costituzionale per approvare il lodo vero, una cosa, un'altra invenzione su queste tematiche. Glauco da Milano, buonasera. Buonasera Cruciani, complimenti. Dica. Per tutto. Volevo chiedere se lei andrebbe mai a una trasmissione di una radio concorrente di Radio 24 a parlare male delle iniziative della sua radio e di quelle del suo direttore. E a cosa si riferisce? Ma vedo Fini da Fazio, vedo Fini da Annunziata, vedo Fini parlare continuamente contro il governo e contro Berlusconi. Cioè, io direi che siamo forse arrivati a un punto di rottura, quantomeno per la serietà del personaggio. Fini è un personaggio che è cresciuto sulla scia di Almirante, ha ottenuto evidentemente quello che voleva ottenere. Poi forse dovrebbe ricordarsi che senza Berlusconi farebbe ancora parte dell'arco anticostituzionale, cioè quello che dove lui col suo partito, con il Movimento Sociale Destra Nazionale, alloggiava. Guardi Glauco, mi sembra che ci siano in questo momento due idee diverse di destra, il blocco di Berlusconi da una parte e una posizione che sembra molto minoritaria al momento, che è quella di Fini. Mi sembrano due strategie politiche in questo momento completamente diverse. Lei sento che è molto berlusconiano da questo punto di vista, no? Guardi, da berlusconiano mi auguro che quanto prima si risolva l'equivoco Berlusconi. Io vorrei che Berlusconi emigrasse all'estero, raggiungesse Gaucci a Santo Domingo, così dopo vedremo se tutti questi personaggi che vivono sul personaggio Berlusconi, e li vedremo magari fare qualcos'altro, vari Santoro, Fazio, Annunziata, Vallo. Va bene, senza Berlusconi, lei dice, morirebbe anche l'antiberlusconismo. Ma probabilmente sì. Andiamo subito a sentire il riassunto della giornata secondo il TG3. Il governo pone la fiducia sul decreto che dà in mano ai privati il servizio idrico. Le opposizioni battaglia in aula, ambientalisti mobilitati. Tensioni nel centrodestra sulla giustizia, ultimatum del presidente del Senato Schifani. Senza compattezza, nuove elezioni. Di Pietro al PD: non fate i primi della classe, scendete in piazza contro il premier. Bersani: non accettiamo lezioni di opposizione. Napolitano in Turchia parla di riforme, benché migliorabile il sistema parlamentare resta il migliore per il nostro paese. Studenti in piazza contro la riforma Gelmini, occupato il rettorato a Torino, tensione a Milano, 4 ragazzi fermati dalla polizia. Attirata con l'inganno e violentata, 4 minorenni arrestati a Foggia per aver stuprato una ragazzina di soli 14 anni. Dal Nord Africa a Torino, 2 film per raccontare i nuovi immigrati del capoluogo piemontese al festival diretto da Gianni Amelio. Sky TG24. Elezioni anticipate, Schifani avverte: se la maggioranza non tiene si torni al voto. Giustizia, duello a distanza tra Fini e Berlusconi, no dell'ANM al processo breve. L'acqua ai privati, il governo blinda il decreto legge, proteste degli ambientalisti. Corteo No Big Day, Di Pietro attacca il PD, Bersani replica: non accettiamo lezioni. Minaccia terroristiche, allarme di Maroni, ci sono analogie con le Brigate Rosse. In un video la fuga sui tetti di Raccuglia, i Pizzini svelano le trame dei mafiosi. Aggredito e rapinato a Roma Termini, nessuno interviene, fermati i 2 malviventi. Studenti in corteo, scontri a Milano, per la Gelmini in piazza solo i centri sociali. Le 2 grandi potenze a confronto, Obama in Cina chiede più impegno sul clima. Spareggio mondiale tra Egitto e Algeria, tensione e violenze alla vigilia del match. Eccoci, 19:20, 800 24 00 24. Proseguirei sulla vicenda Cosentino, perché dopo aver ascoltato Vespa, sentiamo Cosentino stesso, ieri a Porta a Porta. Cosentino che si è difeso, per molti è stato anche un monologo. Effettivamente non era certamente costruita a favore di Cosentino la puntata di Porta a Porta di ieri, però c'era un possibile avversario tra virgolette di Cosentino, comunque delle tesi di Cosentino come De Magistris, che non è stato molto incalzante. Al di là del povero Cristo, del povero disgraziato di Vespa, c'era anche Cosentino che dice: non mi dimetto, sentite. Io non mi dimetto da sottosegretario perché io sto ricevendo una gravissima ingiustizia. Non ho potuto difendermi, non ho potuto raccontare la mia storia e certamente non può essere un pentito, qualche nome nel pazzo, che mi può far arretrare rispetto alla mia storia politica, che è trasparente e cristallina e che posso testimoniare in qualsiasi momento documentalmente, quando avrò la possibilità di poterla chiarire. Questo Cosentino, che poi se ne esce con una cosa particolare che è tutta da sentire per chi non l'avesse ascoltata ieri sera: e il mio destino è nelle mani di Berlusconi, io sono uomo di Berlusconi, se Berlusconi mi chiede di fare un passo indietro lo faccio. Il mio destino personale e politico e quella della regione Campania sta nelle mani di Berlusconi, perché a lui devo tutto, che mi ha consentito di fare ciò che a me piace fare, politica al servizio dei cittadini, e sta anche a Berlusconi, perché è lui che ci ha tolto la vergogna dei rifiuti da Napoli e dalla Campania. Se Berlusconi le chiedesse di fare un passo indietro, lei non obietterebbe? Se Berlusconi mi chiede di fare un passo indietro, io sono uomo di Berlusconi, farei un passo indietro. Ma pare ci siano già emissari del PDL in Campania per cercare una nuova candidatura, per la Campania. Certo che la situazione anche sulla vicenda Cosentino, un'altra tegola, un'altra grana da risolvere per Berlusconi, non è chiara all'interno del PDL. Già nei giorni passati alcuni uomini, alcuni finiani, bisogna cominciare a chiamarli così, una volta c'era la fronda dell'UDC, c'era la fronda, non so, degli antitremontiani, adesso c'è la fronda dei Finiani. Insomma, uno dei Finiani aveva detto, Fabio Granata, a Anno Zero, che insomma Cosentino era ormai impresentabile come candidato. Sentite un altro dei Finiani, Bocchino, Italo Bocchino, che dice: se l'opposizione, come poi ha fatto, presenta PD e IDV, 2 mozioni distinte, una mozione di sfiducia nei confronti di Cosentino, voi che fate? Se ci sarà una mozione di sfiducia su Cosentino, lei voterà sì? Valuteremo se ci sarà una mozione di sfiducia da parte dell'opposizione, perché noi riteniamo che sarebbe opportuno un passo indietro da parte del sottosegretario. Se dovesse rinunciare Cosentino alla candidatura per le prossime regionali in Campania, vi basta o deve anche ritirarsi dal governo? Noi riteniamo che la sua candidatura non sia più nell'ordine delle cose possibili. Ma insomma, avete sentito, vedremo cosa bisogna fare. Da una parte c'è Berlusconi che dice a Cosentino: tieni duro, il candidato sei ancora tu, non ti dimettere. Dall'altra c'è Bocchino che fa parte dello stesso PDL che dice: beh, insomma, potremmo votare anche la mozione di sfiducia dell'opposizione. 800 24 00 24, ci vado o non ci vado alla manifestazione contro Berlusconi al No Cap Day, al No B Day del 5 dicembre? È il nuovo dilemma di Bersani. Senti, ma che tipo di festa è? Non è che alle 10 state tutti a ballare i girotondi e io sto buttato in angolo, no? Ah no, se si balla non vengo. Che dici, vengo? Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente. Vengo. Vengo e mi metto così vicino a una finestra di profilo, in controluce. Voi mi fate: Michele, vieni di là con noi, dai. E io: andate, andate, vi raggiungo dopo. Vengo. Ci vediamo là. No, non mi va, non vengo. Vengo o non vengo? Sfoglia la Margherita Bersani, non sa che fare. Prima se ne esce dicendo: vedremo le parole d'ordine, sentiremo le parole d'ordine della manifestazione. Ripeto, fra poco gliele facciamo ascoltare noi le parole d'ordine. Non dovrebbe avere dubbi un segretario di un partito serio non andare alla manifestazione del 5 dicembre. Eppure tentenna, sentitelo. Ma noi facciamo le nostre manifestazioni, noi di lezioni di antiberlusconismo non le prendiamo da nessuno, perché il più antiberlusconiano sarà quello che riesce a mandarla a casa, non quello che grida di più. Non è che dice ci andiamo, non ci andiamo, i militanti, i dirigenti del PD poi possono andare da soli naturalmente, non vanno perché è una manifestazione che ha delle parole d'ordine che a noi non piacciono. Non lo dice Bersani, perché insomma è difficile adesso assumere una posizione seria e dire non è che ho le manifestazioni del 5 dicembre che, come dice lui, si manda a casa Berlusconi. D'altra parte sentite i toni di Di Pietro, Antonio Di Pietro: chi non partecipa è come Berlusconi. Il 5 di dicembre tutti insieme dobbiamo essere a manifestare per mandarlo a casa, e chi non c'è è alla stessa stregua del governo Berlusconi. Chi non c'è è alla stessa stregua di Berlusconi. Dunque, se Bersani decide di non venire, in questo modo Di Pietro detta l'agenda al Partito Democratico. Chi decide di non venire è come Berlusconi. Beh, insomma, ci siamo dimenticati, ma no, non ci siamo dimenticati della solita rubrica su Antonio Di Pietro. Se è disponibile, non mi ascoltano mai quelle della televisione, a volte mi ascolta qualcuno. Come che mi dà spazio? Come mica si chiamano tutti Fazio. Ma lei è sempre in televisione? Scusa. Ma quando mai? Io la vedo sempre. Ma quando mai? Per la seconda volta ospite di Monica Setta nel pomeriggio di Rai 2, sentitelo come prende in giro Rutelli. Rutelli: Berlusconi in guerra con i giudici e Di Pietro in piazza contro Berlusconi. È la solita storia, nulla di nuovo. Il PD che fa? Come le sembra questo Rutelli, nuova versione neocentrista? Nuova versione, è una versione al giorno. Nel senso? La sa la storia del moscone verde? No, prego. E mo te la racconto. Il moscone verde è una mosca un po' più grossa di quella normale, che è verdone. Se andate nelle campagne, si mette sempre sopra la coda del mulo. Perché? Perché il mulo cammina, e lui si mette a cavallo. Poi gli ultimi 50 metri, poi arriva sempre prima. Il moscone verde chi è? Rutelli? Hai capito a me? Ah! Il moscone verde e Rutelli, il mulo, il moscone verde, io non ho capito nulla, l'ho dovuto ascoltare 100 volte, forse poi vagamente ho capito. Comunque il modo di parlare di Di Pietro è stato fotografato, rappresentato ai massimi livelli da Guzzanti, sentite. Mi sembra sempre che è come quando giochi a carte e tieni tre coppe in mano e vince coppe, poi quando tocca a te quello dice: no, adesso vale spade. Ma come? Quando faceva comodo a te era coppe, mo che è il cittadino che tiene il coppe va le spade. Allora noi dell'Italia dei Valori, se il dito indica la luna, non è la luna, che la luna già stava prima. Qua è il cittadino che, se io porto l'esca per chiappare lo scarfaglione, mi porto l'esca per lo scarfaglione, se tu mi dici che la barca ci mette le ali, non è che diventa un aeroplano, capisci a me? Qua siamo sempre a tagliare il salame col cucchiaino. Se io porto la forchetta, tu mi versi a minestre. Loro si pensano che i cittadini stanno qui per farsi vendere fumo e farsi fregare l'arrosto. La parola d'ordine della manifestazione No Cav Day o No B Day del 5 dicembre, se ancora non lo sapesse, onorevole segretario Bersani, è questa che fra poco ve le faremo ascoltare. Una canzone da parte di uno dei promotori, molto cliccato sulla rete, si chiama Tony Troia, eccola. Ambocciato il lodo Alfano, che goduria che ho provato nel vedere Berlusconi con la faccia da smerdato. Sì, dentro lì, dritto al fresco, finché non lo vedremo. Insomma, onorevole Bersani, lei... ci vorrebbe stare in piazza, per carità, con tutto il rispetto, so che ci ascolta, con Tony Troia, con uno che dice bisognerebbe sbattere Berlusconi al fresco, è questa la parola d'ordine che si aspettava di sentire? Insomma, tra le parole d'ordine, tra le cose principali che hanno mobilitato sulla rete queste 250.000-280.000 persone, c'è anche la canzone di Tony Troia. Se si doveva chiarire le idee, spero che questa cosa sia stata utile. Vittorio da Bologna. Buonasera. Prego, dica Vittorio. Devo dire, questo sarcasmo e questa cattiveria nel confronto di Pietro. Sarcasmo sì, cattiveria no. Beh, un pochino, no? Sì, no, ormai ridiamo, scherziamo su Di Pietro. Sì, beh, comunque è molto sarcastico. Ah, su questo non c'è dubbio. Quasi. Non vorrei che fosse una forma di snobismo verso il Vittorio, la sentiamo male, era interessante il suo discorso, ma la linea è disturbata, la richiamiamo subito. Franca da Piacenza, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Siccome ho aspettato un po' di tempo, mi è un po' sbollita la rabbia che mi viene. Peccato però. Discorso, no, nel senso, ma mi viene ancora il discorso sulle ragazze che sono andate da Gheddafi. Sì. Mi interessava sapere, intanto lei, che è più giovane di me, come le giudica, cioè cosa pensa che le muova? Ah, guardi, Franca, saperlo, ne chiameremo più avanti una... Penso, non lo so, il desiderio, sono state reclutate da un'agenzia di hostess, tra l'altro è curioso pure questo, perché in realtà l'obiettivo di Gheddafi, che sarebbe quello della conversione, convertire dunque ragazzi italiani all'Islam, anzi, per essere più precisi, come scrive oggi Maria Corbi sulla Stampa, convertire le ragazze italiane taglia 42 e altezza minimo 1,70. Avvenenti. C'è un po' di contrasto, credo, no? C'è un po' di contraddizione, o no? Infatti io quando ho chiamato, ho parlato anche con le sue collaboratrici, sì. Ero abbastanza rabbiosa, però appartengo a una generazione in cui sapevamo la storia delle nonne, sapevamo anche le mamme, di conseguenza sapevamo il ruolo della donna subordinata, perfino per votare. La mia mamma mi raccontava che chiedeva al marito per chi doveva mettere il voto, se c'era un convegno, un gruppo di uomini e donne riunite, stavano abbastanza in silenzio, non parlavano. E allora? Ma ecco, allora io mi domando se forse queste ragazze non sanno la storia, il ruolo della donna, per volere, non penso sia innanzitutto il desiderio così di conoscere di più la religione musulmana. Beh, non lo so, Franca, può essere pure il desiderio, non so, di avvicinare un uomo di Stato molto importante, carismatico, ci può essere anche questo. Credo che 75 euro per carità fanno anche comodo, passare due ore e avere 75 euro, certo non può essere allora solo quello. Mi piacerebbe sapere che cosa qualche ragazza magari più giovane di me mi dicesse, mi desse una spiegazione comprensibile. Più avanti nella trasmissione ne chiameremo qualcuno. Dico che ci sono tante ragazze che hanno un progetto per il futuro, si danno da fare, vogliono senz'altro realizzare qualcosa, che si facessero sentire, perché altrimenti ho la sensazione che anche l'immagine che esce delle giovani italiane è di gran baldracca. Però per fortuna, a parte le baldracche, Franca, non credo che sia il caso di scomodare questa terminologia, non credo che esca fuori un'immagine devastante delle ragazze italiane. Insomma, sono 200 più 200, 400 ragazze, mica sono tutte le ragazze italiane tra i 25 e i 40 anni. Vittorio da Bologna, quello di prima. Prego. Sì, rieccomi. Allora, rieccomi. Il sarcasmo nei confronti di Pietro, Vittorio. Sì, no. Vabbè, è normale, fa parte di questa trasmissione. Una puntina di livore, ma la no, nessun livore. Comunque, questa è la mia percezione. Certo, posso sbagliarmi. Certo. Però quello che voglio dire è che un politico non va giudicato dall'addizione, perché anche lei dice forse, forza, eppure io l'ascolto volentieri e penso che la sua sia una trasmissione interessante. Ma no, ma infatti non si giudica la pronuncia, non si giudica assolutamente la pronuncia, Vittorio, nella maniera più assoluta, non beh, è questo. Sono contento, però mi sta un po' questo. Beh, lei l'ha capito, mi scusi un attimo, Vittorio, non c'è assolutamente snobismo, lo snobismo è lontano da me chilometri, per cui non è questo il punto, ma lei ha sentito la parabola, chiamiamola così, il paragone del moscone verde e del mulo? Ma sì, ma dai, se prendiamo quelli, le persone che fanno parte della Lega, ne tirano fuori a centinaia tutti i giorni, eppure lì non c'è tutta questa attenzione. Beh, vuole che faccia un elenco delle cose che ha detto Pompeo, Calderoni. Ma sì, certo, ma, dai, ma Vittorio, non sto dicendo che non ci sono altri politici che cadono nel ridicolo con le cose che dicono, figuriamoci, o che usano espressioni bizzarre o che hanno una pronuncia italiana arraffazzonata. È chiaro che è così. Dopodiché, siccome Di Pietro, al contrario di quello che dice lui, è una delle persone più ascoltate, che sta sempre in televisione ed è anche uno che pesa molto nell'opposizione, ci concentriamo su Di Pietro, o no? 100 dei voti, no? Quindi tutto sommato ha un minimo di seguito. Anche lui, valutiamolo per la sostanza, non per la forma. Io la sostanza è quella che cerco e non la trovo, Vittorio, mi dispiace. Abbiamo idee diverse. La cerco e non la trovo. La cerco e non la trovo. Grazie, arrivederci. Grazie a lei. Mauro da Pisa. Pronto? Mauro, dica. Pronto, buonasera Cruciani. Io volevo intervenire nella questione del leader libico Gheddafi e vorrei sottoporre questa cosa. Se tu fosse verificato tutto a parti inverse, voglio dire, se un leader occidentale fosse andato a Tripoli, avesse convocato 500 ragazze libiche in un albergo, in una villa, se vuole lui, e le avesse cercato di indottrinare. Mauro, problemi col cellulare. Francesco da Lucca, sempre Toscana, buonasera. Buonasera dottore, in realtà io vivo a Lucca, ma sono uno dei tanti giovani professionisti che si è trasferito dalla Campania, sono casertano d'origine, quindi sì. La questione del PDL giù, che è lo strapotere degli imprenditori del sud, la conosco bene. Io volevo semplicemente esprimere questo. È giusto per me andare alla manifestazione il 5 dicembre e non mi meraviglia più sentire che il Partito Democratico tentenni. Non capisco piuttosto neanche. Francesco, guardi, sentiamo veramente male, mi dispiace. Cioè, questa sera è una sorta di ecatombe telefonica. Emilio da Milano, buonasera. Buonasera. Dica, meno male, ecco, una voce squillante. Sentivo a proposito delle sue considerazioni circa il fatto che Vespa avrebbe in un qualche modo difeso questo parlamentare. Che non è che lo ha difeso dalle accuse, Cosentino, è che nei confronti della modalità in cui è arrivato il mandato di arresto, mi scusi un attimo, le modalità con cui è arrivato il mandato di arresto, ha espresso delle perplessità. Io penso che questo sia assolutamente normale, penso che tutti gli italiani, tranne quelli che commettono fatti che non devono, dovrebbero indignarsi, gli altri dovrebbero vergognarsi del fatto che gli avvisi di garanzia, le notizie di reato, le richieste di arresto vengano diffuse attraverso la stampa. Le citerò un piccolo esempio. Quando mi occupavo di personale in un'azienda, trapelarono dei dati circa le retribuzioni dei dipendenti. Benissimo, il direttore mi chiamò e mi dette un calzettone perché dice: lei questi dati li deve tenere riservati, non devono uscire. Dopo un po' si accertò che questi dati uscivano da una tipografia che rilegava e fascicolava i listini. Allora, primo, vorrei sapere quanti magistrati hanno preso il calzettone perché di fatto consentono che queste notizie vengano diffuse tramite stampa. Non dico le vendono, consentono che le vengano diffuse. Mm. E secondo, quali strumenti ha adottato il Consiglio Superiore della Magistratura per evitare che queste cose succedano? Perché noi abbiamo trovato una soluzione, non abbiamo più mandato i listini a rilegare. Vorrei sapere cosa fanno gli organi responsabili della magistratura al riguardo. Non c'è solo la magistratura come responsabile. responsabile della fuga di notizie che poi arriva sui giornali. Io penso che i processi li fanno i magistrati, no? Non li fanno i salumieri. No, le indagini, ho capito, però i fascicoli arrivano anche ad altri personaggi coinvolti nelle indagini, gli avvocati per esempio. La ringrazio, Emilio, molto contenti di avere nostro ospite Ivan Scalfarotto, che è vice segretario, credo, del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera, vicepresidente. Vicepresidente, non confondiamo con ecco, mi faccia capire, perché qui nel nuovo Pantheon del Partito Democratico c'è un presidente che è Rosy Bindi, un segretario che è Pierluigi Bersani e poi lei è vicepresidente. Io con Marina Sereni siamo vicepresidente dell'Assemblea Nazionale del Partito. Vicepresidente dell'Assemblea Nazionale, dell'Assemblea Nazionale. E poi c'è Enrico Letta, che è il vero vicesegretario del partito. Eccoci, che cosa fa un vicepresidente? Ma questo io poi ho fatto per tanti anni il direttore delle risorse umane, per cui mi sono occupato di che cosa fanno le persone, per cui la prima domanda che mi sono posto io, in realtà la cosiddetta job description è ancora tutta da chiarire. Cioè lei ce l'ha per esempio una stanza, una scrivania alla sede del Partito Democratico oppure no? Non ancora, ma spero di farmela dare in fretta, perché poiché appunto per tutta la vita ho fatto altre professioni, quando mi danno un incarico poi tendo a lavorarci. A riempirlo, quindi, soprattutto. Perché, se fosse possibile. Diciamo che il ruolo è un ruolo nuovo e quindi sostanzialmente io vedo soprattutto una cosa che sicuramente c'è da fare. Mm. L'Assemblea Nazionale è un organo di 1000 persone elette sui territori dalle primarie, quelle del 25 di ottobre. Io credo che trovare un sistema per utilizzare al meglio queste 1000 persone che comunque rappresentano i territori, che rappresentano passione politica, rappresentano impegno, penso che debba essere una delle cose sulle quali con la Bindi e con la Sereni dovremo sicuramente Dunque l'organizzazione, altre. L'organizzazione. Sì, sì, diciamo 1000 persone tutte insieme è difficile farle lavorare e motivarle, provare per esempio a creare dei sottogruppi potrebbe essere una prima strada per motivare e utilizzare appieno questo potenziale. Scalfarotto da Citigroup, da esperienze manageriali a cercare di dare sostanza al Partito Democratico, insomma, potremmo riassumere in questo modo. Senta Scalfarotto, qui c'è una prima grana però che riguarda Bersani ed è questa, la solita poi, per non restare sempre un po' sortentenna come spesso è successo ai segretari del Partito Democratico passati, andare o non andare alla manifestazione promossa da Di Pietro e da Rifondazione Comunista, ma non solo da loro, anzi è nata dalla rete, poi hanno aderito Rifondazione Comunista e Italia dei Valori del 5 dicembre, l'hanno già nominata No Cab Day, No B Day, lei che farebbe? Ci andrebbe? Ci va soprattutto o no? Ma io personalmente del tutto probabile che ci vada, devo dire, anche se mi piacerebbe sempre poter partecipare a cose nelle quali si dicono, si portano avanti degli argomenti un po' più complessi, dire no a Berlusconi, insomma, come dire, finisce un po' lì. Ora, che di dire no a Berlusconi ci sia bisogno assolutissimamente è fuori discussione. Ora, fosse per lei il Partito Democratico ci dovrebbe andare? Ma secondo me, diciamo la verità, il Partito Democratico è un grande partito per cui poi magari le sue manifestazioni se le organizza, però come giustamente ha detto Bersani, se c'è una manifestazione, le sue parole d'ordine ci convincono, non mi sembra, come dire, da scandalizzare. E a lei convincono queste? Andarci. E a lei convincono? Ripeto, a me piacerebbe poter dire qualcosina di più di soltanto no a Berlusconi, però mi rendo conto che data la situazione di questo paese, glielo dice uno che ha vissuto all'estero per tanto tempo, come dire, la sensazione molto forte di dover dire no a tutto questo è difficile. Da respingere. Ecco. Dunque lei ci va? Io ci andrò, sì. Senta, però le faccio ascoltare questa canzone, che è una delle canzoni che faranno da sottofondo alla manifestazione, perché l'autore di questa canzone si chiama Tony Troia, è uno ascoltato sulla rete, uno che fa canzoni molto dure nei confronti di Berlusconi. Abbiamo tolto le parolacce, perché io ho detto a Bersani, secondo me non il Partito Democratico, la pensiamo in maniera diversa, Scalfarotto non dovrebbe andare a questa manifestazione, perché se lei sente online, perché la cosa nasce online, le parole d'ordine di questa manifestazione, lei che è un moderato, insomma, lei che non è una persona estremista, si mette un po' paura anche lei, sentite. Ambocciato il lodo Alfano, che goduria che ho provato nel vedere Berlusconi con la faccia da smerdato, sì, dentro di, dritto al fresco, finché non lo vedremo. Scalfarotto, diciamo la verità, la sostanza della manifestazione è questa. Lei potrebbe sfilare in questa manifestazione accanto a qualcuno che dice Berlusconi deve stare al fresco e poi le cose che ha sentito, che sono quelle più leggere, non si sente. Ma guardi, il problema è questo, che in questo paese poi ci alterniamo tra meno male che Silvio c'è, che è una canzoncina degna della Corea del Nord, a questa canzone che è una schifezza. Per cui se il problema è che ahimè i toni della lotta politica in Italia sono francamente deludenti. E su questo non c'è dubbio. Detto questo, c'è da dire che la situazione italiana, lo ripeto, io poi guardo un po' abbastanza alle cose che accadono in questo paese come uno che ha una grande dimestichezza del resto d'Europa e penso che una delle cose che la classe dirigente di questo paese dovrebbe avere sempre a mente è che noi abbiamo un benchmark rispetto al resto d'Europa, come dire una pietra di paragone rispetto alla quale dovremmo essere sempre degni e siamo degni molto raramente purtroppo. Allora il problema è che, ed è politico, è che prescinde le canzoni di ogni colore, è che quello che sta succedendo in tema di giustizia in questo paese è una cosa veramente molto grave. Questa legge, questo disegno di legge che è stato presentato è un disegno di legge che, anche per le modalità nelle quali viene presentato, è un disegno di legge che io penso non faccia bene alla democrazia e segnali, come dire, un abbrutimento. No, ma questo può darsi, però insomma c'è una battaglia parlamentare ancora da iniziare, ancora da fare. Cioè, è in Parlamento che si fanno le battaglie anche dure, non è facendo le manifestazioni al grido di Berlusconi in galera. No, secondo me il Parlamento è giustissimo, è un ruolo, è un posto importantissimo, di fanno delle cose importantissime. Questo non vuol dire che poi la passione civile delle persone non si debba esplicare, soprattutto se lo si fa in modo civile, se lo si fa per manifestare liberamente il proprio pensiero. Vabbè, vedremo, io ho dei dubbi sulla, non dico sulla civiltà di una manifestazione, per carità, sulle parole d'ordine. Altro argomento, lei è stato molto chiaro su questo, la sentenza della Corte Europea sul crocifisso a lei è piaciuta moltissimo, fosse per lei lo toglierebbe subito il crocifisso, è vero? No, io dico innanzitutto che appunto la sentenza della Corte Europea è una sentenza. Non faccia il diplomatico. Non faccia il diplomatico, si figuri, proprio da me non lo sa. No, che appunto, non appunto. La sentenza è una sentenza che non è una cosa che va presa sotto gamba. Allora, io penso semplicemente questo, Don Milani mi dicono e so che teneva il suo crocifisso nel cassetto della sua stanza e so che nessun cattolico terrebbe un crocifisso nel salotto, ma lo si tiene in posti molto più preziosi e molto più riservati. Detto questo, io mi immagino un paese che sia la casa di tutte le persone, di qualsiasi fede, cristiani e non cristiani. Il crocifisso dà fastidio? Può far ritenere qualcuno questo, che quella non sia la sua casa? Penso che se io fossi l'imputato in una causa, mi piacerebbe di più essere giudicato semplicemente in nome del popolo italiano. E così è, non parte, è che si decide in nome di Dio. Senza altri simboli, no, perché non ha niente a che vedere con l'amministrazione della giustizia. Ho capito, infatti non si decide in nome di Dio, si decide in nome della giustizia. Appunto, chiedo scusa, non l'avevo sentita. No! Per questo penso che, senza per questo mancare di rispetto ai simboli religiosi e alla religiosità di ciascuno, lo sforzo di costruire un paese inclusivo e che accetti le differenze è uno sforzo molto pesante, sul quale noi italiani siamo in grave ritardo. E passa attraverso l'eliminazione dei crocifissi nelle scuole, nelle aule di tribunale? Passa attraverso il fatto, l'affermazione che è normale in tutti gli altri paesi europei, che lo Stato non ha religione. Abbiamo una religione comune che è la nostra carta costituzionale, perché guardi, non è che esiste la religione da un lato e ma ho capito dall'altro. Io però esiste la religione da un lato, dall'altro lato esiste per esempio la carta costituzionale, no, ma certo, che è il patto che ci unisce, che con non è popolo, che impedisce che non è che impedisce di mettere i crocifissi nelle aule. No, lo sa perché io lo dico, perché io penso invece che quel crocifisso messo nelle aule sia un grande segno di inclusività, è proprio il contrario di quello che pensa lei. Vabbè, scusi, questo non può deciderlo lei, questo deve chiederlo a chi quella religione non professa, deve chiedere perché non mi pare ci sia una rivolta, non mi pare ci sia una rivolta nelle scuole italiane. Io che sono una minoranza e vivo quotidianamente la fatica di essere parte di una minoranza, sono anche un po' stanco di sentirmi dire da quella maggioranza cos'è e che cosa non è che mi dovrebbe offendere. Allora io penso che sarebbe più carino cominciare a chiedere a chi è minoranza cosa lo offende e cosa no. Purtroppo, poiché la tutela delle minoranze è la vera cartina di tornasole della salute di una democrazia, se cominciassimo di là, secondo me sarebbe un po' più passo in avanti. Questo è un bel discorso, però devo dirle che non mi pare di avere visto e sentito rivolte nelle scuole italiane da tanti anni per la presenza del crocifisso. Un'altra considerazione è questa: Rutelli che se n'è andato, secondo lei il Partito Democratico perde qualcosa? Lei è contento oppure dispiaciuto? Io sono in genere dispiaciuto quando qualcuno se ne va dal Partito Democratico. Non in questo caso, però, immagino. Ma no, ma anche probabilmente in questo caso, cioè io ripeto, penso che il fatto che Rutelli se ne sia andato sia, io ovviamente lo rispetto, penso però che nel progetto di quel partito ci fosse appunto la costruzione di un partito inclusivo dove ci sono posizioni anche molto differenti, ma posizioni diciamo così di progresso. E poi guardi, anche con Rutelli ci sono probabilmente delle cose con le quali, diciamo, sulle quali io non sono completamente d'accordo con lui, ma molte cose sulle quali siamo d'accordo nel partito, e purtroppo la stampa ovviamente giustamente fa anche il suo mestiere, è più facile, è più interessante concentrarsi sulle cose che dividono che sulle cose Lei per esempio ha detto che Binetti l'avrebbe cacciata già da tempo dal Partito Democratico, è stata una di quelle che Rutelli ha portato, insomma. Ho detto che un parlamentare che vota contro la fiducia al suo governo è un parlamentare che prende una decisione estremamente difficile da sostenere, soprattutto quando quel voto di fiducia è un voto decisivo per la sopravvivenza di un governo, e ho detto che per Turigliatto e Rossi altri partiti alla sinistra del PD presero decisioni molto più gravi, anche se Turigliatto e Rossi non votarono contro la fiducia al governo ma contro una semplice mozione del ministro degli esteri. Ma non so se la Binetti ha mai votato la sfiducia al governo Prodi. La Binetti ha votato contro la fiducia al governo Prodi su una legge proprio legata alla sull'omofobia, sì. E quando era l'unico voto di maggioranza, per cui dico, fu una presa di distanza molto forte. Poi dico anche che la professoressa Binetti, onorevole Binetti, dice in tema di omosessualità delle cose che in Europa dicono soltanto i gruppi dell'estrema destra, per cui dico, è vero che è giusto un partito inclusivo, però dire che gli omosessuali sono malati in Europa lo dicono solo i gruppi neonazisti. Per cui insomma l'espulsione non sarebbe una follia secondo lei? Io non mi piace espellere nessuno, penso che chi appunto sostiene delle tesi di questo genere poi abbia se lui stesso o lei stessa fatica a stare in un partito di centrosinistra. Grazie, buona serata. Prego. Il presidente del Senato Schifani: se la maggioranza non è compatta, la parola torni agli elettori. Bersani: è la dimostrazione che hanno problemi. Cicchitto: la coesione non mancherà. Terrorismo, allarme del ministro Maroni, dai NAT segnali seri, analogie con le BR, possibili rapporti con l'estremismo islamico, massima attenzione. Faccia a faccia tra Obama e il presidente cinese Hu Jintao, dal clima al nucleare alla crisi economica, collaborazione nella diversità, e Obama invita al dialogo col Dalai Lama. Nella giornata mondiale del diritto all'istruzione, manifestazioni in molte città italiane, tensione, due arresti a Milano, Gelmini, sono dei centri sociali, non rappresentano gli studenti. Attirata in un capannone con la scusa di giocare alla PlayStation e poi violentata, vittima una 14enne a Foggia, arrestati 4 minorenni. Super Enalotto di nuovo da record, stasera jackpot da quasi 90 milioni di euro, il più alto del mondo, boom di giocate nel 2009. Incerti sul futuro, amano TV e social network, indagine sui giovanissimi, un adolescente su 5 fuma Spinelli, tra i modelli dei bambini Valentino Rossi e Belen Rodriguez. Bene, TG1. Schifani, maggioranza sia compatta o si torni a votare? Scontro di Pietro Bersani su manifestazione anti-Berlusconi. Maroni al TG1, allarme terrorismo dai nuclei di azione territoriale, proclami inquietanti, appello alla maggioranza, serve coesione. Ban Ki-moon al TG1, il vertice FAO non è un fallimento e ringrazia l'Italia per la partecipazione alle missioni di pace. Un altro passo avanti verso la beatificazione di Wojtyła, ieri la riunione dei cardinali, forse il prossimo anno sarà beato. Trappola in un capannone del Foggiano, 14enne stuprata dal branco, 4 minorenni di buona famiglia e violentatori. Abbiamo incontrato l'ultimo scrivano di Napoli, ha cominciato con le lettere, ora compila per 50 centesimi i moduli davanti al comune. Va bene, prima della 7 sentiamo qualche ascoltatore. Giuseppe dalla provincia di Salerno, poi Francesco da Siena. Giuseppe, provincia di Salerno. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Complimenti per la trasmissione. Sono contento di essere riuscito ad intervenire perché ultimamente non era stato più possibile. Che vogliamo fare, Giuseppe? Allora, no, le volevo dire che sono contento stasera perché finalmente un uomo politico apertamente ha dichiarato la propria disponibilità. Citando le parole del sottosegretario Cosentino, io telefono dalla provincia di Salerno, dato per scontato che sia una persona, pulita, no, mi sembra un termine non esatto, cioè una persona innocente, fino a prova contraria, tutto quello che si voglia dire, finalmente una persona ha parlato nel gergo che più si addice al nostro Premier, perché in maniera chiara ha detto: io sono uomo di Berlusconi. Berlusconi, e per cui se Berlusconi mi chiede di fare un passo indietro, io lo faccio. E sono contento perché voglio vedere questa volta il nostro Premier, che ha tante capacità e che non ha le mani legate, e che ha le mani pulite, e che non si preoccupa di niente, non è ricattabile, è ricattato dai giudici, dagli altri, eccetera, eccetera. Questa storia della regione Campania con la provincia di Caserta e con questa dichiarazione, devo dire che non fa una piega da parte del sottosegretario, come se la cava. Infatti la palla è nelle mani di Berlusconi. La ringrazio, Giuseppe, la ringrazio. Grazie, buonasera, buon lavoro. Francesco, allora, da Siena, buonasera. Buonasera, no dai Cruciani, quella di Gheddafi è troppo forte, ma arrabbiata, la signora di prima era arrabbiata. Io mi sono fatto una risata, solo lui poteva inventarsi la figura del discepolo a pagamento. Cioè, ma si immagina la scena, 200 hostess in giacca, gonna, tacco 10, la scena è surreale, io me la immagino. Se domani chiede 200 steward, io vado, questo è puro teatro. Ma lei ci va per incontrare Gheddafi, mica per i 75 euro? No, per incontrare Gheddafi, anche gratis, subito parto, prendo l'aereo, vado. È una maschera, lui appoggia la maschera nel comodino la notte, se la rimette la mattina e parte. Ma devo dirle, anch'io Francesco, se mi dicessero vai a incontrare Gheddafi, ci vado subito. Subito. Infatti alla fine credo che quello che scatti sia questo. Da una parte è così, dall'altra devo dire che quante di queste persone prima reclutate conoscevano Gheddafi? Cioè, da chiederselo. Ma poi invita qualcuno che in un centro studi Islam, qualcuno che sta dietro al Corano, che prende a pagamento delle persone e fanno lì a fare un servizio, a far che? Ascoltare forzatamente una religione? No. La lette le parole di una di queste qua, si chiama Francesca: da ieri sera non mi stacco dal Corano e non vedo l'ora di andare in Libia, ho lasciato tutti i miei recapiti a una delle mogli di Gheddafi e mi ha assicurato che presto partiremo. Lasciare i recapiti a una delle mogli di Gheddafi è spettacolare, nel senso che lì c'erano anche tutte le mogli di Gheddafi, una parte delle mogli. Quante mogli ha Gheddafi? No, non lo so, però io ho letto l'altra invece. Ditemi quante mogli ha, vi prego, qualcuno mi dica quante mogli ha Gheddafi. Non ne ho idea. No, faccia, tiri giù una cifra. Ma non meno di una, proviamo con una ventina? No, meno. Meno, una decina. No, secondo me meno, 4-5, secondo me 4-5 massimo. Vabbè, dunque? Niente, appunto, volevo dire questa pantomima che c'è dietro alle esternazioni di Gheddafi e le azioni che fa. Ecco, io tutto proprio tranne che indignazione, oppure per la signora di prima che diceva la figura della donna, ma questi lo fanno di lavoro, cioè mi pagano, vado a una conferenza o vado a sentire Gheddafi. Certo. Io non ci trovo tutta questa indignazione, scandalo. Sì, ecco, l'ha detto bene lei, la parola baldracca di prima, proprio fuori luogo totalmente. Assolutamente, grazie. Aurelio da Pescara, prego. Sì, salve. Infatti io sono pienamente d'accordo con il radioascoltatore di adesso che ha appena fatto l'intervento, però che non si dica che l'Italia non è un paese tollerante, perché anzi io rivendico a questo punto il crocifisso a scuola, perché voglio dire, stiamo perdendo l'identità. A mio avviso. Ma adesso questo è esagerato, non certo per la presenza di Gheddafi, però, Gheddafi abbia detto a una di queste ragazze che in croce non c'era Gesù ma un sosia, insomma. Ma io voglio dire, l'Italia, no, si dice che non c'è tolleranza verso le e chi lo dice? Chi lo dice? Chi lo sostiene? Come che non chi lo dice? Insomma, qualche imbecille, insomma. Però insomma se ne sente parlare, no? Di tolleranza verso nuove religioni, di integrazione, che noi non siamo capaci di integrare, tutto quanto. Ma a parte il fatto che discuto anche la sentenza della Comunità Europea, perché onestamente io non mi sento molto rappresentato, cioè si prende solo quello che ci conviene dalla Comunità Europea, o no, mi sbaglio, non mi sento molto rappresentato da questa sentenza, perché qui si rappresentano tante religioni, voglio vedere se in Romania si sono posti questo problema qui del crocifisso, gli ortodossi si sono fatti questo problema, è un problema tutto italiano, cioè noi cavalchiamo sempre delle battaglie strane, non lo so. Poi riguardo anche, volevo cambiare anche argomento, per quanto riguarda Cosentino, sì. Invece sono favorevole che non si dimetta, perché sinceramente non è, anzi Berlusconi sicuramente dirà che non si deve dimettere, Ma mi sembra una cosa. Non lo so, mi sembra bizzarro il fatto che Berlusconi dica una cosa e addirittura uno dei deputati del PDL, diversi deputati del PDL, invece sono pronti a votare una mozione di sfiducia dell'opposizione. La 7, titoli. Tensioni interne nei due schieramenti. Il presidente del Senato Schifani avverte: la maggioranza si compatti o si va alle elezioni. E a Di Pietro, che scenderà in piazza contro il premier, Bersani risponde con un secco no: io non vado, ma noi non accettiamo lezioni di anti-berlusconismo da nessuno. Il ministro dell'interno Maroni lancia l'allarme dopo il ritrovamento dei volantini terroristici a Milano. Segnali seri, non sono opera di un matto. Vertice USA-Cina, cordialità e promesse. Il summit di Copenaghen sul clima non deve fallire, è l'impegno assunto dai due grandi. Sui diritti umani Obama esorta Hu Jintao, Pechino riprende il dialogo con il Dalai Lama. Sul tappeto anche le divisioni commerciali tra i due paesi. Andiamo a Napoli, Marco, buonasera. Marco, mi sente? Lei mi sente, sì, buonasera. Dica. Niente, io... A proposito della vicenda dell'onorevole Cosentino. Sì. Niente, io volevo... Marco, guardi, oggi evidentemente con Napoli ci deve essere qualche problema, perché i telefonini si sentono male. Gianluca da Roma, buonasera. Buonasera, Cruciani. Dica. Volevo trarre spunto dalla quotidiana ironia che si fa su Di Pietro, non che io sia... una persona che stimi Di Pietro, comunque volevo cogliere la palla al balzo per fare una denuncia, nel senso che Di Pietro è l'unico personaggio politico che in questi ultimi giorni si è fatto promotore di un dramma che stanno vivendo molte famiglie in tutta Italia. Non so se ha sentito la vicenda del gruppo Omega, come si chiama? Sì, Eutelia. Esatto. Sì. E, oggi assieme a loro hanno manifestato per il centro di Roma, ed è riuscito, credo anche attraverso l'aiuto di Pietro, di ottenere almeno un tavolo di confronto nei prossimi giorni, credo il 27 novembre, con Gianni Letta. Sì. L'unica cosa che volevo far presente è che Di Pietro, che se ne dica, comunque ha preso a cuore questa notizia, che nessun quotidiano o diciamo TG1 o TG2 che sia, tranne TG3 che ha fatto vari sì, insomma, sì, ho visto vari servizi. Esatto. Volevo cogliere la palla al balzo perché so, a me compreso, seguono la sua trasmissione quotidianamente, quindi volevo magari attraverso il suo aiuto, attraverso dandomi la possibilità di parlare, di far presente questo dramma che stanno vivendo molte famiglie, che probabilmente dal 1 gennaio non prenderanno più una lira, non lo prendono dallo scorso agosto in realtà, sì. Ma dal 1 gennaio saranno tutti a casa con, credo, la solita modalità della cassa integrazione, cioè. No, neanche, purtroppo, della mobilità. Sì. Guardi Gianluca, per carità, il perdita del posto di lavoro, soprattutto in questo periodo, è un dramma, e certamente è un dramma che riguarda in questo caso diverse centinaia di persone, se non migliaia, relative famiglie. Sì, assolutamente. Però devo dire la verità, le modalità in cui spesso Antonio Di Pietro cavalca queste cose a me non piacciono. Io ricordo rappresentanti dell'Italia dei Valori e lo stesso Di Pietro arringare i dipendenti dell'Alitalia, assistenti di volo eccetera eccetera, a Fiumicino, spesso durante gli scioperi o comunque in prossimità degli scioperi. Anche l'altra volta credo sia stata bloccata da parte, non so se era proprio il caso dell'Eutelia, credo la Roma-Napoli, eravate voi? No, quello era il caso della... Era un'altra azienda. Ecco, insomma, certe modalità un po'... donchisciottesche di cavalcare certe situazioni. Non parlo della situazione delle vostre famiglie, naturalmente, parlo della modalità con cui Di Pietro cavalca queste situazioni. Adesso, a me francamente non piacciono, e non credo nemmeno che questo aiuto servirà a qualcosa, se proprio vuole un parere da me. Abbiamo in onda sempre il nostro ascoltatore da Roma, Gianluca, Enza da Roma, Antonio sempre da Roma e Paola da Trento. Prima, qualche minuto con una delle persone, 200 l'altra sera, 200 ancora ieri sera, che hanno incontrato, reclutate da un'agenzia che si chiama Hostess Web, il colonnello Gheddafi. Si chiama Alda Ribeiro, ha 26 anni, buonasera. Salve, buonasera a tutti. Eccoci qua. Senta, lei innanzitutto è di origine non portoghese, se non sbaglio? Sì. Sono nata in Portogallo, però sono di origine di un paese che è un'ex colonia portoghese. Cos'è, il Mozambico, l'Angola, cos'è? No, è il Sao Tomé e Principe, il sito. Sao Tomé e Principe, mi ha fregato. No, è... Senta, voglio sapere una cosa. Che cos'è che l'ha spinta? Non credo siano stati 75 euro, anche se possono essere una motivazione sufficiente, per carità, perché insomma, quando si fa un lavoro anche per 75 euro. Cos'è che l'ha spinta ad andare a questo incontro, colonnello Gheddafi? Tra l'altro so che lei ha il Corano da un... lo sta compulsando in queste ore, o sbaglio? Sì, è da due giorni veramente, però è un po' scomodo perché è enorme, non è il libro più pratico da portare in giro. Ah, su questo non c'è dubbio. Di vederlo online, dal telefonino e questo tipo di cose. Cioè, però, il Corano dal telefonino? Eh sì, www.corano.it. Ah, dai telefonini quelli con l'iPhone. Beh, certo. La pubblicità. Per carità, l'iPhone io non ce l'ho, per cui... Senta, no. Per cui lei... No, la situazione è stata un po' ambigua, più che altro... trattandosi di un servizio che era previsto per due ore, io avevo appena finito un altro impegno, perciò sì. Considerando le due ore, considerando un lavoro a Roma per due ore, 75 euro, coinvolgono tanta gente a farlo, no, anche perché inizialmente si parlava di una cena. Cioè, è tanto secondo lei? Sicuramente non è il lavoro pagato cioè non è il miglior lavoro del mondo, però considerando che avevo finito uno di lavoro, avevo reclutato anche alcune mie amiche, la situazione sarebbe molto ok, dobbiamo vestirci elegante, ci sarà una cena di gala dove saranno presenti dei personaggi politici, così sì. Era stato detto inizialmente, e dove avrete la possibilità di far parte di uno scambio di opinioni, potevamo sia partecipare con Gheddafi. Gheddafi sapevamo c'era la presenza di diversi personaggi politici. Ah, per cui non vi hanno detto un incontro con Gheddafi? Sì, si aveva già parlato più che altro, ecco. Sì. Senta una cosa, ma questa cena pare che non ci sia stata alla fine. No, infatti diciamo che le ragazze della prima giornata erano molto spaventate, più che altro non sapevamo a cosa andavamo, pensavamo che sarebbe stata una cena via Veneto, dopodiché ci siamo trovati a salire su un pullman, andare in una villa e non lo so se tutto, ovviamente parlo per me e per le mie amiche, certo. Pensavamo ma che genere di cena è, ma perché ci portano nel pullman, ma perché tutto il controllo della sicurezza, perciò mi ricordo che i cellulari non potevano entrare, ma neanche le borse, perciò per un momento una sorta di paura abbiamo anche provato per tutto il mistero che si stava facendo. Senta, poi questo incontro com'è stato? Cioè lei ha potuto rivolgere qualche domanda? Vi siete stretti la mano con Gheddafi? Sì. Che è successo? Sì, invece ci hanno messo tutte sedute a ferro di cavallo e ovviamente il leader è entrato, abbiamo applauso. Si è messo subito lui a nostra disposizione per rispondere ad eventuali domande che in generale non ci ha dato neanche un tema, non è che ha detto. Però ha risposto oppure no? Perché dalle cronache sembra di no, che non abbia risposto. Avete posto qualche. Sono stata la prima sessione, so che l'ultimo incontro pare che abbia risposto ad ognuna delle domande. La mia è stata risposta e questo mi fa piacere. L'avevo chiesto direttamente, essendo molto, almeno vedendo la donna come essere emancipato, assolutamente contrario, almeno pensavo così della parola sottomissione o tutto il marchio allora... che avevo dell'Islam, e avevo chiesto cosa ne pensava della donna in politica o anche di tutte. Mi ha detto, io sono delle parti delle donne, perciò qualunque ruolo che si abbiano avranno il mio consenso. E lei ci crede? Io voglio credere, infatti per quello mi trovo, non posso chiamarlo studiare perché non è semplice, penso che abbia comunque... Però si è messa a leggere il Corano. Vabbè, non è che si convertirà, no? Guardi, sono incuriosita, infatti si parla molto della parola convertirsi, però penso che sia un fedele di qualunque religione questo sia, deve avere bisogno di più che due giorni. Vabbè, su questo non c'è dubbio. Senta, ma secondo lei non è un po'... Ho capito. Secondo lei non è un po' non dico ridicolo, ma quasi buffonesco il fatto che se l'obiettivo è quello di avvicinare all'Islam un certo numero di ragazze come lei, perché si rivolge ad una platea di persone che in realtà fanno queste cose per lavoro, e in particolare anche a ragazze italiane taglia 42, leggo, altezza minimo 1,70, insomma avvenenti. Immagino che lei faccia questo mestiere perché ha le caratteristiche fisiche per farlo, ecco qua. Insomma, sicuramente i requisiti c'erano, però io penso che la sua idea era esattamente questa, o far parlare di sì in questo modo. Io lo spiego come l'ho vissuto. Ho vissuto come un gruppo grande, perché erano 100-150 ragazze, molto della dolce vita, come ho anche visto, romana, perciò non gli dico, a parte i requisiti, però erano tutte ragazze messe bene, non c'era... Messe bene, che intende lei, dal punto di vista... Intendo che non è che si trattasse di un gruppo di ragazze con la minigono, scollate, o in questo senso, voglio dire... Sì, ho capito. Era stato richiesto, in primo viso, la mia idea, almeno la mia sensazione, considerando anche le mie colleghe, le mie amiche, erano ragazze che fanno anche altro di lavoro. Ma che vi hanno detto? Come vestirvi, per esempio? Assolutamente eleganti. Però non scollate. Esatto, perciò nello scolato io ho avvertito una sorta di... Lì ho pensato alla religione, perciò ho pensato che ci poteva essere presente un leader di un certo tipo. Una figura associata ad una religione. Però insomma, perciò... non è un po' strano, cioè avvicinare all'Islam però solamente ragazze, diciamo, belle ragazze, questo un po' fa... Io penso che sì, esattamente questo è il messaggio che voglio passare. Appunto, non lo so. È un po' contraddittorio. Per come l'ho vissuta... Penso che la sua idea era esattamente quella di dire, ok, anche queste ragazze, intese come, non so se posso dare la parola futile o... Vabbè, belle ragazze, materialiste, il prototipo del socialismo, del capitalismo, chiamiamolo come vogliamo, anche loro possono convertirsi all'Islam. È stato molto... Vi dico, è stata una serata che io oggi riesco a dire cosa è stato. Mi ricordo che ieri ancora cercavo di capire. Senta, ma lei è pronta ad andare in Libia? Ci andrebbe in Libia? Ah, assolutamente sì, ma come gli dico, è molto associata alla curiosità, al quasi bisogno che ho di capire qual è il fondamento di alcune delle espressioni che lui ha detto. Non lo so se lei sa, ma anche una questione che Gesù Cristo non è stato... crocifisso. Beh, insomma, questa mi sembra una grossa sciocchezza, abbia pazienza. Io vi dico, dipende di chi la vede, dipende di come la vede, più che altro... Cioè, non mi dica che è rimasta affascinata da questa teoria di Gheddafi. No, affascinata non è la parola, sicuramente. Sono rimasta incuriosita, dicevo, ma in base a che cosa questo leader fa questo tipo di affermazione? E lui ci diceva, andate a cercare la verità, quello che lui chiamava verità, nel Corano. Perciò io ad oggi non cerco la verità quando leggo il Corano, cerco da persona ragionevole, pensante, cioè da essere pensante, persona pensante, scusate l'italiano, penso di poter consultare, informarmi e fare le mie di conclusioni. Va bene, però... io la ringrazio molto, ma insomma, alla fine avvicinarsi a Gheddafi com'è? È una persona che trasmette carisma, fascino, com'è? Guardi, mi metto in difficoltà perché, vi ho detto, l'ho trovato una persona, perciò li inizia, li finisce. Qualcosa le avrà trasmesso, l'idea di un uomo, no, così che guida il suo paese da tanto tempo. Ai giorni di oggi, io mi sono sentita, ai giorni di oggi, scusatemi l'ignoranza, non pensavo ci fossero ancora persone così, perciò per un attimo ho pensato, come fa questo uomo che a primo viso è normale essere umano, perciò nulla di, al contrario di quello che lei dice, se lo vedo per strada non è che mi trasmette carisma, perciò mi sono sentita di informarmi un po' di più. Vabbè. Sia cerca del leader di per sé che cerca della religione islamica. La religione islamica. Va bene, grazie. 20 e 29, c'è la borsa 800 24 00 24. Anche questo accade in Italia, non solo. I disastri di alcune aziende, ci stava parlando prima Gianluca da Roma, facciamo un salto logico come è normale in questa trasmissione, ma anche come vi ho detto, come avete sentito, queste sfilate di donne tutte belle di fronte a Gheddafi. TG2. Richiamo del presidente del Senato Schifani: se la maggioranza non tiene, si torni al voto per rispetto dei cittadini. Replica l'opposizione: il padrone della legislatura non è il governo. Per il ministro Maroni ci sono analogie fra i nuclei armati territoriali e il sistema brigatista. Si valutano i rapporti con l'area antagonista e l'estremismo islamico. Il direttore generale dell'Agenzia Nucleare dell'ONU, El Baradei, in una intervista al TG2 parla del ritorno del nucleare in Italia, scelta legittima purché sia garantita la sicurezza. Le immagini della brutale aggressione da parte di due rumeni a un giovane straniero alla stazione Termini di Roma. Molti vedono, nessuno interviene, arrestati i responsabili. Al TG2, Eleonora Bagnato, la bella siciliana, prima ballerina all'Opéra di Parigi, dopo il video con Vasco Rossi, diventa Shahrazad. Ecco i suoi. Va bene, seguiti. Gianluca, allora da Roma, con cui abbiamo ripreso la comunicazione. Prego Gianluca. Sì, giusto per concludere, e lei quello che diceva prima è anche vero, cioè il modo di fare politica di Di Pietro, come molti altri nel panorama politico, non è condivisibile, però è pur vero che questa è anche la dote, credo, o l'arte di far politica, no? Cioè cogliere l'opportunità per fare propaganda o raccogliere comunque. Sì, no, per carità, ma infatti voglio dire, non è che sia l'unico Di Pietro poi a montare sopra alcune situazioni di disagio dei lavoratori che pure ci sono. Lei dove lavora esattamente, Gianluca? In Eutelia, quindi volevo solo far presente questa cosa, nel senso che quasi. Com'è nata la vicenda di Eutelia? Ce la racconti? È una storia molto lunga, cioè una sorta di varie acquisizioni nel corso degli ultimi anni, non ultima quella del gruppo Getronics e Bull, che erano gli ex Olivetti, non so se ricorda. Sì, allora? E che quindi è finita male, nel senso che a metà giugno di quest'anno è stata ceduta un ramo di azienda, la parte Information Technology, a una società agile, a cui sono state riversate circa 2.400, adesso potrei sbagliare, 2.400 dipendenti, e che nel giro di pochissimi giorni, da lì alla cessione del ramo di azienda, questa agile è stata venduta al gruppo Omega, che mi pare di capire ha moltissimi dipendenti strutturati in varie sottoaziende. Molti di queste aziende non percepiscono lo stipendio da molti mesi, da agosto. Per quale motivo? Perché l'azienda è in difficoltà, l'azienda è in crisi? È latitante, che io sappia. L'azienda è latitante, non ha... No, ho capito, ma è in crisi, cioè c'è una situazione... Diciamo che è stato fatto un kick-off subito dopo l'acquisizione, c'erano ambizioni di rilancio. Il fatto è che esattamente circa un mese dopo invece hanno annunciato che c'era un esubero di personale di circa 1.000 dipendenti e che questi a breve verranno messi in mobilità. Quindi ci troviamo di fronte a queste aziende che sono delle scatole cinesi che secondo il mio modesto parere servono solo a far sparire le persone, cioè il dipendente che è in sovrannumero, perché passare 2.400 persone da un'azienda all'altra per poi venderla, per poi andare a capire con chi hai a che fare, che è latitante, le garantisco che questo l'amministratore delegato di questa azienda non ha mai parlato con i dipendenti e neanche i sindacati ci sono mai riusciti, quindi si è fatto sempre negare, non si sa nulla degli stipendi, non si sa nulla, quindi quello che le volevo far presente è che questa gente da 2 settimane ha occupato tutte le sedi aziendali e ha invocato l'apertura di un tavolo di trattative direttamente alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Quello che le volevo dire prima è che nessuno ha dato ascolto o ha accolto la tranne Di Pietro. Di Pietro, voglio dire, lei dice giustamente Di Pietro coglie l'occasione per farci un po' di propaganda, ma anche il dipendente stesso che è in difficoltà o il cittadino coglie l'opportunità di Di Pietro che ha porto il suo orecchio per va bene, va bene, vedremo come andrà la vicenda e se il rapporto di Di Pietro sarà decisivo, non so per che cosa in realtà, perché non so poi che ruolo può avere la politica in tutto questo. La ringrazio, Andrea da Milano, in queste situazioni poco chiare dal punto di vista aziendale. Andrea, prego. Sì, buonasera Cruciani. Senta, no, intanto il mio intervento vuole essere mirato a fare i complimenti a Gheddafi, perché insomma lui ha avuto veramente coraggio venire nel centro della cristianità a Roma e dire, se non ho capito male, frasi del tipo Gesù Cristo non è morto sulla croce ma era un sosia, insomma ci vuole molta fantasia. E poi vabbè, non, più sì, non è la prima volta che dice queste cose, comunque. Purtroppo. No, l'altra cosa era soffermarmi invece sulla pochezza, forse di intelligenza, anche di valori di chi è andato ad ascoltarlo, ecco, perché adesso va bene i tempi di crisi, va bene che 75 euro, se non ho capito male, fanno comodo a tutti, però insomma andarci convinti e uscire più convinti di prima e mettersi magari a leggere il Corano, che per carità è un libro magari anche interessante da leggere, mi riprometterò di farlo, ma dopo aver magari finito di leggere se non almeno i Vangeli, buona parte anche dell'Antico Testamento e del Nuovo. Poi bisognerebbe andare a vedere qual è la situazione in realtà nei paesi islamici, come vengono trattate le donne, ma è un altro capitolo che bisognerebbe aprire, non è solamente sfogliando il Corano che si percepisce. Ma certamente, no, poi appunto cioè, mi viene da dire anche che fortunatamente penso che le donne d'Italia non siano tutte taglia 42 e poco cervello, probabilmente perché... Ma no, adesso poco cervello, non lo possiamo dire, non mi sembrava che la ragazza che abbiamo ascoltato prima fosse priva di qualsiasi cognizione. Non parlerei magari di pochezza, solo di intelligenza, forse mi sbaglio, quantomeno di valori, perché adesso... guardi, però no, anche lì no, Andrea, mi scusi, sì. Si metta nei panni di chi? Di persone che di mestiere fanno le hostess, che è un mestiere come un altro, lo fanno diverse ragazze, e vengono reclutate da un'agenzia per cui lavorano per una serata, per due ore a 75 euro, secondo quella ragazza si tratta di una tariffa assolutamente normale. E c'è anche la curiosità di capire cosa si va a fare, no? Incontrare qualcuno, eccetera. È un lavoro come un altro, per cui io non parlerei di... No, io infatti non parlo del fatto che loro ci siano andate su invito, ci sarei magari anche andato anch'io, perché comunque sono per il dialogo anche interculturale, interreligioso. Il fatto che però alcune di queste persone siano rimaste ammagliate da questa persona, che voglio dire, la conosciamo abbastanza bene tutti, è un nostro amicone, no, ultimamente. Dopodiché, si sa la sua vita, le sue donne, si sa che aspetta 70 vergini dopo la morte, in paradiso quando risorgerà, se l'è già adesso, non so se è vergine o meno, però voglio dire, qualche perplessità sull'effettiva considerazione della donna, la donna, se fossi donna, ce l'avrei. Assolutamente, donna, Andrea, però, tra l'altro non abbiamo ancora chiarito la vicenda delle mogli di Gheddafi, nessuno me l'ha chiarita, la ringrazio. Marco da Napoli, buonasera. Buonasera. Dica. Salve, io chiamavo a proposito della vicenda dell'onorevole Cosentino. Io chiamo da Napoli, come lei ha detto, e volevo sottolineare una cosa che secondo me non viene valutata per quanto è importante. Cioè che l'onorevole Cosentino, che sicuramente è innocente, dimostrerà la sua innocenza nel processo, non è accusato di aver preso delle tangenti, o di aver preso dei soldi, o di aver fatto assumere delle persone, così, ma di essere in combutta con dei criminali camorristi, cioè gente che ammazza le persone. Quindi è una cosa un po' diversa, un po' più delicata. Chi è di questa zona, di Napoli, insomma, si rende conto che essere contiguo a certi ambienti, non... Tra l'altro l'onorevole Cosentino è anche imparentato, per quanto ne so, ho letto sui giornali, attraverso le sorelle, con delle persone che stanno all'ergastolo. Sì, no, Marco, su questa vicenda della parentela, su questa vicenda della parentela. Sì, no, ma su questo, sull'opportunità si può ragionare, naturalmente. Cioè, lui deve essere al governo, cioè lo Stato italiano non può fare a meno di questo sottosegretario. La Regione Campania, il PDL non possono candidare un'altra persona, cioè non è un problema enorme questo fatto. Cioè, sinceramente, chi aveva sentito parlare di questo onorevole Cosentino prima di questa indagine? Beh no, prima della copertina dell'Espresso di qualche tempo fa. Ma non è che sia questo personaggio di spicco che viene colpito e che adesso per colpire il PDL politicamente attraverso la magistratura. Cioè Cosentino è andato in televisione la prima volta ieri sera per difendersi, cioè per difendersi, per accusare. Ma il fatto che sia andato per la prima volta in televisione che significa? Significa che non è vero, che è un personaggio completamente sotterraneo, che non riveste questo ruolo fondamentale nella politica italiana e che siccome è impelagato in una situazione che riguarda non soldi, ma gente che viene ammazzata, io ripeto, qui a Napoli la gente per problemi con ma anche soldi e potere, viene ammazzata. Sì, non lo so, è innocente al 100%. Ma anche però... soldi e potere, non è una storia come dice lei che non riguarda soldi e potere, in realtà riguarda come soldi e potere. Non è 80 tagliano del tutto. Sì, ho capito, non sono tangenti. Sono cose serie, cioè cose grosse. Allora io dico, lui è innocente, io sono sicuro che è innocente, perché lo, però è opportuno che deve stare al governo. Marco, me lo domando anch'io, è una domanda, ed è la domanda che ho posto questa sera, poi... lei fa un ragionamento assolutamente lucido, un ragionamento anche con dei dubbi molto seri. La mia controdomanda è questa: è giusto o no che la permanenza al governo in un incarico politico di una persona sia determinata non da una sentenza di primo grado, di secondo, definitiva, possiamo ragionare su questo, ma sia determinata dal fatto che un giudice e siamo nella fase, diciamo, delle indagini, mandi una richiesta di arresto, un avviso di garanzia? È giusto che, lei dice, dipende, se sono tangenti è una cosa e se è vicinanza con la camorra è un'altra. Beh, insomma, una distinzione anche difficile da fare, eh? Posso rispondere a questa domanda? Prego. Io penso che ci sia un difetto, diciamo, di mediatico in questa cosa, perché i casalesi forse sono meno cioè se io le dicessi il cognato, il cugino di secondo grado di Totò Riina è sottosegretario, lei al di là di tutto che è una persona per bene, lei lo sentirebbe come problema. Ma non c'è dubbio, Marco, certo, ma non è la stessa cosa, non è la stessa cosa, però. Ma guardi che qui da queste parti, cioè non è facile negare un piacere a una persona che ti viene a trovare e per chiederti un piacere e tu sai che ha una pistola in tasca, anche se tu sei perfettamente onesto, diciamo. Cioè non è affatto facile. No, ma questo l'ho capito benissimo, Marco, però è un discorso fatto in generale, non applicato al caso Cosentino. No, perché... di persone che vivono nelle stesse strade, che si frequentano. Ho capito, allora facciamo una cosa, Marco, facciamo che chi vive e chi cresce nella zona di Casal di Principe o in altre zone ad alta densità camorristica non possono avere incarichi di governo, così, tanto per essere sicuri. Il suo ragionamento porta a questo, io lo sottoscriverei. D'accordo. Biagio ci chiama da Monza, buonasera. Buonasera dottor Cruciani, è un piacere poter parlare con lei. Dica. Volevo se era possibile porre intervenire su due questioni. Una, l'intervento mi pare del signor Gianluca da Roma, che mi pare che sia un dipendente dell'Utelia, dove sì, lui, sì. Sì, allora no, non ho capito male, dove lui asseriva che grazie all'unico impegno che si chiama Di Pietro, la questione dell'Utelia come dire si risolverà, ma io credo che questo sia, c'è stato anche l'impegno dei sindacati bravissimo, bravo. Io volevo ricordare il signor Gianluca, essendo romano, sabato dove era, no? Perché gli è sfuggito una delle più grandi manifestazioni che è la CGL, dove diciamo uno dei primi striscioni che aprivano il corteo, perché dato che io c'ero sabato a Roma, era proprio in onore ai lavoratori di questo grande gruppo. Sì. Quindi, ecco, cioè, quindi allora cerchiamo di non... Perché cioè lei dice all'attenzione dell'opinione pubblica, non è che questa vicenda è arrivata per merito di Ma Pietro. Assolutamente, perché questo demagogo che oramai si infiltra in tutte le situazioni, no? Io credo che è anche ora di finirla, ma anche per, come dire, un discorso di maturità da parte di noi altri italiani, che siamo sempre alla ricerca del Messia o del Salvatore, che poi mi pare che Di Pietro non lo sia, no? Ecco, allora, per onor di verità, io credo che... Va bene, Biagio, ho capito benissimo. No, ma dico, le questioni del lavoro si risolvono se, come dire, i lavoratori si stringono intorno alle proprie organizzazioni, no? Mm. E appunto sono nel bene e nel male, si può dire peste e corna, no? Del sindacato, però mi pare oggi in campo l'unico soggetto che fa proposte e che può, come dire, ho capito benissimo, risolvere il, come dire, risolvere adesso non lo so, no risolvere, cioè, ma quantomeno io dico, di fronte al tema della crisi, no? Se non ci fosse stato il sindacato, dove, come dire, con fare certosino si impegnasse ad avere questa, come dire, questa permanenza costante, il rapporto tra le istituzioni, le associazioni datoriali, i lavoratori, no, non lo so se Di Pietro o chi per esso non poteva. Va bene, grazie. Antonio da Roma, buonasera, velocemente, siamo in conclusione quasi. Antonio, un flash. Sarò velocissimo, due cose. Una, il crocifisso nelle scuole io lo terrei tranquillamente, anche perché secondo me non può turbare nessun bambino. Quel crocifisso non parla, quindi per un bambino che è cattolico può significare qualcosa, per uno che non è cattolico o comunque i genitori non lo sono, è un oggetto così messo lì. La seconda è riferita al test di droga per i politici, sembra un po' una caccia al politico ed è anche offensivo. Si immagini lei Andreotti o Rita Levi che devono fare un test per la droga e poi se sono determinati a questo punto facciamolo pure a noi elettori che siamo ancora più determinanti. Va bene, grazie. Roberto da Varese, buonasera. Buonasera Cruciani, brevissimo, volevo sottolineare che si è parlato in maniera incredibile di Gheddafi quasi come una brava personcina che viene a prendere il tè a cenare in Italia. Noi ci dimentichiamo che stiamo parlando di una persona che è stata associata all'attentato dell'aereo Lockerbie, insomma, quindi forse non proprio del tutto cristallino, una persona che nel suo paese governa come un imperatore, un dittatore assoluto che tiene sotto il calcagno la popolazione, una persona che ancora ammette la pena di morte e la tortura. Io questo che mi domando, la signora o la signorina che voleva andare nel suo paese, quando andrà mi auguro che faccia un giro nelle galere libiche a vedere le condizioni in cui sono tenuti degli esseri umani. Questo è quello di cui stiamo parlando. Mi stupisce che si faccia passare questi aspetti in secondo piano. Questo è grave, direi che è veramente molto grave. Bene, grazie Roberto. Enza da Roma, buonasera. Sì, buonasera. E il mio era soltanto un piccolo intervento riguardo alla questione del crocifisso nelle scuole. Sì, la questione del crocifisso che in realtà è stata riaperta questa sera dall'intervento di Scalfarotto, non è che ci sono novità di attualità. Scalfarotto infatti, che ha detto? Infatti il problema purtroppo è proprio quello, che non ci sono novità, no? Quindi secondo me, dal mio punto di vista, si tende comunque a trarre delle conclusioni un pochino affrettate, un pochino superficiali. Però Enza, cosa ci volevo dire? Perché dobbiamo concludere. Alla reazione degli studenti. Niente, io volevo semplicemente invitare qualcuno, appunto, che programma trasmissioni su questo tema, magari a intervistare qualche studente, a fare qualche sopralluogo. Perché cosa verrebbe fuori? Delle scuole. E non lo so che cosa vorrebbe fuori, se non lo facciamo non lo possiamo sapere. Io ho l'impressione, Enza, devo concludere, ho l'impressione che in realtà al 99% degli studenti non credo che un crocifisso in aula dia molto fastidio. Alessandro, provincia di Mantova, per concludere, abbiamo 20 secondi, poco meno. Dica. Sì, buonasera signor Cruciani. La domanda è semplicissima, ma se Berlusconi fosse andato a Tripoli e avesse chiamato 50 ragazzi anziché 50 ragazzi o cipressi e avesse regalato la Bibbia e fatto proselitismo, perché quello che ha fatto Gheddafi secondo me è semplice proselitismo. Cosa sarebbe successo, lei dice? Oppure sì. Avrebbe potuto farlo? Avrebbe potuto farlo e cosa sarebbe successo qualora, perché io non penso che le ragazze che sono... Innanzitutto Berlusconi non è un leader, come dire, religioso come lo è in parte o come pretende di esserlo anche Gheddafi, dunque è difficile che possa andare a fare proselitismo in Libia, non gli passerebbe nemmeno per l'anticamera del cervello. La ringrazio Alessandro per quest'ultima provocazione con cui concludiamo, ci sentiamo domani 18:30. Radio 24, la passione si sente. Grappa le 18 lune di Marzadro, l'arte di saper aspettare. Vi ha presentato La Zanzara.